non ho nemmeno iniziato, anzi non ho nemmeno comprato il legno, perché avrei dovuto farmi una vetrata per la parte alta della mansarda per chiudere completamente la tromba delle scale, diciamo, dai, in modo da non essere comunicante diretto anche per l'inverno, adesso che arriva l'inverno, il caldo eccetera, capito? Se no se ne andrebbe, il caldo è soggetto a salire, no? E se ne andrebbe tutto su. Vabbè, scada ugualmente, però per quale motivo devo sprecare? Niente spreco, non se ne fanno sprechi. Avanti Luca. Non si spreca niente, no. Aspetta, stavo cercando il cavo del CD a proposito. Ok Lu. Sì, sì. Beh, mi sembra che è lo stesso cavo delle URV5, come si chiama? Anche è uguale, sembra, credo che sia uguale anche. Confermi? Lo stesso, sì, sì. Un attimo che hanno suonato. Va bene. Un po' di musica gli hanno fatto a casa, visto gli hanno suonato il campanello. Avanti Claudio. Ehi, vai campana, qua. No, ma scusa, il Marbofenghi non si... non penso che si debba attaccare il cavetto per fare tutte le cose, ma io non ne ho mai avuto, io ho quelli più alti in grado, però non so se quelli va, come si dice, aperto col cavetto, insomma attaccato al computer, non mi ricordo. Sì, sì, claro, ma è falso, va, no? Perché lo danno per 400-470, quella è la frequenza U, poi c'è la V, è 136-175 se ricordo bene, e poi c'è l'MF, la cosa, perché c'è anche la radiolina, a modulazione frequenza, che è da 68 mi sembra fino a 108, per cui però tutto quello funziona, però siccome può arrivare sino a 520 MHz anziché a 470 e ci vuole il cavo per espanderlo completamente, capito? Sì, sì, è così, tranquillo, sono sicuro, intanto perché ce l'ho sino a 520 e poi perché è stato fatto già allora, solo che mi si è attaccato, avevo la cuffia, mi si è attaccato il filo della cuffia, mi si è attaccato un giorno e l'ho buttato giù per terra ed ecco che si è rotto il display. Da quel momento non ha più funzionato il display. Il portatilino funziona sempre, non c'è problema, prende tutto e anche di più, però non funziona più nella torcia, perché c'è anche la torcia, c'è, no? C'è una lampadinetta LED che illumina abbastanza e più non si accende più il display, tutto lì ho qua. Ma ci vedi 120 voglia di nevare, non c'è niente, avrei preferito lasciarlo così, conoscere le frequenze giuste da 400 a 470 e fino a fare i buchi, soltanto sono lì le frequenze, e poi da 136 a 170, non, sopra, oltre i 160 non c'è più niente, quindi va bene, poi vabbè, se si può espandere, fallo, ma io non ho mai avuto quel tipo di portatile, ce l'ho tolto per gli altri, quelli un po' più alti in grado, ma comunque funzionante è quello, anche i miei non li ho mai toccati e partono più o meno così e fanno tutto, la frequenza c'è tutta, capito? Ok, sì, beh certo, questo anche questo fa V e U anche, però si sa, io lo uso il BMR perché è giusto che sia così. No, ma mi piace anche come portatilino, perché te lo attacchi alla cintola, ti attacchi perché c'è la molla per attaccarla alla cintola, con il suo antennino, l'antennino te lo puoi passare sotto la maglietta, intanto la cintola è sempre coperta dalla maglietta o dalla camicia e non vede niente nessuno, e puoi utilizzarlo anche fuori, volendo, come ho fatto altre volte, dai. Sì, sì, è così, si può espandere sino a 520 MHz, tranquillo e pacifico. Ma una cosa di 40 euro mio, una cosa del genere, costa, non ti crede che... È un giocattolo però che è bello, si sente chiaro, bello, abbastanza pulito, anche la radio, l'FM, si sentono tutte le stazioni, tutte indistintamente. E dunque, mi piace averlo così, tutto lì. Vediamo se è rientrato Luca, dove è entrato, sì. Dopo il 460, 68, 69 non c'è più niente, anche se lo espandi oggi non fa niente perché non c'è nessuno, capito? Non è che ti serva qualcosa, non c'è nessuno dopo quella, già non ve ne esce uno, a giù mai più giosso, figura di più sopra. Oh no, qua. Sì, ma infatti non serve a niente. Meglio tenerlo così, anche perché poi la sanzione magari può creare dei problemi, delle cose, o tieni così, te lo compri, tieni in originale, senza toccare niente, le frequenze normali sono da 100 in VHF, 144 a 146, più che sufficiente, poi quelle UHF da 430 a 440 e poi ci hai anche inserito tutta la banda PMR, buono per altro, non c'è altro, tutto morto, bah. Assolutamente, ragion per cui io manco microfoni c'ho nelle due, sono solo sul PMR e basta, gli altri ci sono le radio con i tappi, giusto per non avere il microfono in mezzo ai piedi, se capita deve farmi due chiacchiere le attacco il microfono, ma sarà molto difficile. Raga, le 7.25 sono, io devo iniziare a prepararmi, però mi dispiace tantissimo mollarvi, ma devo iniziare a prepararmi perché devo sistemarmi il piano. Se state qua, il tempo di portare il piano è pure ritorno, se no dovete Boisi. Io mi sto sentendo anch'io, oggi ci sentiamo dopo. Ok, d'accordo, allora ci salutiamo qua e poi casomai se non coincide più tardi, magari domani, non c'è problema. Sicuramente anche domani ho classe, sia a casa, probabilmente ci possiamo sentire come stamattina. Magari entrerà anche l'amico del Porto Torres e quindi facciamo un'altra chiacchieratina. E così ci spiega se ha deciso di fare quel lavoretto che vuole fare per il collegamento dei vari spezzoni, eccetera eccetera. Va bene, Cla, a dopo, buona passeggiata col cane, a risentirci, dai, ok? Ciao Luca, ci sentiamo. Io adesso cosa faccio? Adesso faccio un direttino, ascolto chi c'è e dopo me ne scendo giù. Intanto, Claudio, ti comunico che la Juve ha preso Chiesa, e a quanto sembra prende anche Palmieri, prende la Chelsea. Staremo a vedere, adesso alle 8 chiude il calciomercato, per cui comunque Chiesa è già preso, già sicuro, già versato, già depositato anche il contratto in Lega, per cui adesso vediamo un po' se prende anche Palmieri, così abbiamo un altro terzino, come dire, di cambio al posto di Alessandro. Vabbè, ciao qua, alle prossime, ciao Luca. Ehi, giù, e Chiesa con chi gioca? Al posto di chi gioca? Mamma mia, che casino. Sulla fascia gioca, può giocare sulla fascia, anche interno può giocare, però probabilmente è stato preso per giocare sulla fascia sinistra, perché sulla destra, bene o male, abbiamo Quadrado o addirittura Kulusevski, eccetera eccetera. Vabbè, comunque vedremo poi il casino della partita di ieri che non si è giocata. Adesso mercoledì dovrebbero dare la partita vita alla Juve a tavolino, così è brutto, però purtroppo il regolamento è quello e il Napoli penso che si abbia tirato la zappa ai piedi. Va bene, Cla, vai pure col cane, dai, col cane, ci sentiamo. Ciao Luca, alle prossime. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, sì, magari mettiti in ascolto, non so. Se c'è qualcuno io entro dopo, se no pazienza. Dai. Va bene, grazie delle chiacchiere, a dopo, ciao. Ok, ciao. Oh.

Sant'Alberto c'è uno, c'è la Gavino, ce l'ha, ma non ce l'ha quasi nessuna Sassari di queste qua. Ascolta, guarda questa modulazione, ascoltala bene, adesso passi sul canale 10 così non può cambiare. Passi sul 10 che è comodo l'altra radio, mi dici secondo te se ti piace più questa, primo passaggio, poi ti faccio il secondo passaggio sul 10, vai.